Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieta di presentarvi Due di Denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. L'automobile sportiva che mi dà un tono di gioventù. Già. Buongiorno a tutti, buongiorno. Quest'oggi, come avevamo annunciato ieri, da solo in conduzione, qui ci sono io, Mauro Meazza, dall'altra parte del vetro il riccioluto Pietro Lacorte, attentissimo in console, e poi l'insostituibile è Marco Lombardo, che è sempre lì, vigile e pronto. Perché abbiamo cominciato con il maestro Giorgio Gaber e la sua Torpedo Blu? Perché oggi parliamo di lavoro, essendo mercoledì, e nel parlare di lavoro ci sarà anche spazio per parlare un po' dei rider. C'è fermento nella categoria, per così dire, c'è fermento dal punto di vista della rivendicazione di diritti e tutele, c'è anche un certo fermento proprio nel settore complessivo. Vi segnalo due notizie, ma probabilmente molti di voi saranno a conoscenza anche di iniziative analoghe, ad esempio da parte dei comuni che stanno cercando anche di mettere in rete i negozi cosiddetti di prossimità e che anche loro fanno del delivery, quindi fanno un po' i rider di loro stessa iniziativa. C'è una particolare app, si chiama Ciao Aldo, è un delivery, viene presentata così, per ristoranti stellati, perché usano degli autisti qualificati per consegnare, questo è il loro slogan, piatti che non possono essere maltrattati dal trasporto, quindi che vanno trasportati con una particolare cura, quindi con, abbiamo immaginato noi, magari una macchina particolarmente, una vettura particolarmente lussuosa, come poteva essere la Torpedo Blu di Gaber. Sul radiatore, sopra il tappo, tu vedrai la statua della vittoria. E poi ce n'è pure un'altra di app interessante in questo settore, si chiama servealtro.com e associa i food truck, quindi i furgoncini, i mezzi mobili che abitualmente stazionano all'esterno e così offrono da mangiare, ma in questo momento naturalmente di limitazioni che appunto continuano e anzi purtroppo per noi si infittiscono. Servealtro.com si propone come delivery pure essa. Ce ne sono, ripeto, molte altre, ne abbiamo citate due tra le tante segnalazioni che ci sono arrivate. Una rapidissima occhiata al nostro sommario prima di passare al giornale radio del risparmio. Oggi, come vi ho detto, parliamo di lavoro, parliamo di rider, ma soprattutto parliamo di lavoro con INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, che da un po' di mercoledì ci aiuta a decifrare che sta succedendo nel mondo del lavoro. Quest'oggi saremo ancora più ambiziosi perché grazie a due ricercatori INAP cercheremo di capire che cosa potrebbe succedere nel momento in cui uscisse finalmente o si allentassero questi vincoli agli spostamenti e alle attività produttive. Come facciamo a poterlo pronosticare? Perché è stata fatta proprio un'indagine che ha verificato come è andata l'occupazione nel primo periodo, quindi di lockdown, di chiusura generalizzata, e poi quando invece abbiamo ricominciato nelle nostre normali attività produttive, quasi tutti. E abbiamo dei diversi numeri e diverse analisi disponibili su questo, quindi possiamo anche trarne qualche indicazione per il futuro. Cerchiamo in qualche modo di guardare avanti. I numeri sono quelli abituali: 800 24 0024 è il nostro numero verde se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 è invece il numero per inviare i vostri SMS oppure messaggi tramite WhatsApp. Prima di tutto questo, però, come sempre, il giornale radio del risparmio. Meazza con Rosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina. Stiamo comunque sui temi del lavoro, un pochino di rassegna stampa viene da dire, perché ci sono anche delle notizie in qualche modo positive, anche in queste circostanze assolutamente difficili per molti di noi. Una notizia positiva l'abbiamo tratta dal Sole 24 Ore di oggi, a pagina 4, Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci ci segnalano che anche in questo periodo di emergenza sanitaria, in questa fase di lockdown, di chiusure, però la contrattazione di secondo livello è andata avanti, quindi quella di livello aziendale, soprattutto che riguarda i premi, il welfare. Come sapete, c'è sempre una tendenza crescente a stipulare rinnovi contrattuali in sede aziendale per offrire ai dipendenti dei servizi particolari. Possono essere anche le stesse visite mediche, possono essere le tutele per quanto riguarda i figli e cose di questo genere. In qualche caso c'erano le palestre, ad esempio. Ecco, come segnalano i due colleghi sul Sole 24 Ore di oggi, da marzo a ottobre c'è stato un balzo in avanti di questa contrattazione. Il Ministero del Lavoro a marzo segnalava 11.000 dichiarazioni attive relative a premi di produttività e a welfare, a metà ottobre erano diventate 13.630. Erogazioni monetarie oppure in beni e servizi interessano quindi oggi più di 3.200.000 lavoratori. Il valore medio annuo del premio è 1.330 euro. Notizia in chiaroscuro, perché in realtà questo aumento, come spiega lo studio De Fusco & Partners, è male distribuito sul territorio italiano, con una netta prevalenza delle imprese situate al nord e invece una decisa minore presenza delle imprese situate al centro e soprattutto al sud. Ricerche di personale. G-Group ricerca e seleziona oltre 3.000 profili da inserire nei settori della grande distribuzione organizzata e della logistica. Quindi supermercati, magazzini, degli store online si stanno preparando a un prevedibile picco di attività che sarà dovuto in parte alla crescente richiesta di generi alimentari e beni di prima necessità e in parte naturalmente anche all'aumento dei consumi, che è un po' atipico sempre di questo periodo finale dell'anno, anche perché ci sono queste occasioni di acquisto oramai divenute tradizionali, come ad esempio il Black Friday, le settimane promozionali che portano verso il Natale. L'azienda G Group ci segnala che appunto sulla base dell'esperienza dei mesi primaverili si ritiene che alcuni settori potranno subire gli impatti di eventuali misure più restringenti, ma nel settore di logistica e grande distribuzione organizzata resterà invece una domanda sostenuta. Quindi 1.500 figure si cercano soprattutto per i banchi specializzati nella grande distribuzione, la gastronomia, la macelleria, l'ortofrutta, eccetera, e anche nel settore logistics 1.700 posizioni aperte. Due notizie rapide e poi andremo a parlare invece di rider, di tutto quello che sta succedendo un po' nell'ambiente dei rider, della consegna, quindi in piena continuità con quello che vi sto annunciando, che vi ho annunciato con queste notizie. La concorrenza, come avete probabilmente letto e ascoltato, la Commissione europea mette sotto accusa Amazon. Siamo sempre nell'ambito appunto della consegna dell'e-commerce. Qual è l'accusa? Amazon avrebbe distorto illegalmente la concorrenza nel mercato del retail, cioè insomma della popolazione dei clienti minuti online. Un abuso di posizione dominante e presunte pratiche sleali. Queste sono le preoccupazioni espresse dalla Commissione. Non c'è una iniziativa di multa, di sanzione, è una contestazione che viene fatta ad Amazon per uso di dati non pubblici dei venditori indipendenti e di pratiche commerciali di e-commerce che non sarebbero corrette. Come ha spiegato la commissaria Vestager, siamo giunti alla conclusione preliminare che l'utilizzo di questi dati consente ad Amazon, con i propri algoritmi, di concentrarsi sulla vendita dei prodotti più venduti e quindi questo marginalizza i venditori di terze parti e limita le loro capacità di crescita. Come ho detto, non c'è una sentenza. La sentenza dovrebbe arrivare il prossimo anno. Se sarà confermata l'accusa, Amazon rischia una multa fino al 10% delle sue entrate globali. chiudiamo con un'ultima ricerca, è di Randstad, una ricerca sul lavoro da remoto, smart working, telelavoro, lavoro da casa e lavoro in presenza. Allora, secondo una ricerca di Randstad Research, lavoro e studio intelligenti sono possibili con una trasformazione, una combinata di smart working, quindi lavoro da distanza, di smart learning, quindi anche quella che noi chiamiamo oramai DAD all'italiana, didattica a distanza. È possibile fare un uso fino a 6.400.000 persone come smart worker estensivi, che corrisponderebbero a un terzo del totale degli occupati, e poi ci possono essere ancora 1.500.000 di smart worker che Randstad chiama ibridi, quindi che possono alternare momenti di lavoro da remoto e momenti in sede, e quindi un futuro del lavoro che sarà un po' misto secondo questo disegno. Ma la buona notizia è che, a giudizio di Randstad, con un utilizzo accorto si può arrivare anche a un miglioramento della produttività del lavoro, quindi viene da dire anche a un recupero di benessere per tutti. Ci auguriamo che Randstad abbia visto giusto. Dottor Pietro Lacorte, io a questo punto partirei con il nostro primo blocco, andrei a parlare di rider con un collega che ne sa molto. Abbiamo una sigletta a concia? Parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro con Alberto Magnani, è un collega del Sole 24 Ore, un collega tra l'altro anche autore di volumi sul lavoro, in particolare del lavoro giovanile, il lavoro dal punto di vista delle generazioni più giovani. E, Alberto, buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Buongiorno a te, Mauro. Allora Alberto, c'è un discreto fermento nell'ambiente dei rider, ma insomma poi ovviamente con queste limitazioni alla nostra possibilità di movimento, limitazioni che ahimè vanno inasprendosi, possiamo anche immaginare che ci sarà una richiesta sempre maggiore. Abbiamo visto delle manifestazioni di protesta perché ancora molti di questi lavoratori si ritrovano privi di sufficienti tutele, abbiamo anche assistito ad annunci importanti come ad esempio quello che è venuto da Just Eat, ne abbiamo parlato anche ieri qui a Radio 24, e Just Eat ha detto dal 2021 daremo un contratto di lavoro dipendente, con questo un po' spiazzando anche quella che è la linea sia normativa sia dei tribunali, almeno a quello che ricordo io, ma tu sei sicuramente molto più informato di me, allora puoi farci un po' il punto, come siamo messi, questi lavoratori adesso quante tutele hanno veramente, quante invece non hanno? Ma se volessimo utilizzare un'espressione sintetica potremmo dire che siamo in mezzo a una selva di contratti e di condizioni lavorative differenti, perché la situazione attuale è questa. Come sappiamo, i rider stanno manifestando, hanno manifestato in maniera anche abbastanza evidente in tutta Italia contro l'entrata in vigore di quello che è il primo contratto di categoria siglato da Asso Delivery, che è l'associazione datoriale dei servizi di consegna a domicilio o di delivery, come appunto sono diventati noti, e il sindacato UGL. Perché queste proteste? Perché secondo la visione dei rider e anche degli altri sindacati, che non hanno assolutamente gradito quello che è stato definito addirittura un contratto pirata da parte di Asso Delivery e UGL, dicevamo questo contratto andrebbe in violazione a tutta una serie di parametri che sono stati fissati da quella che è al momento l'unica legge a tutela della categoria, vale a dire la legge 128 del 2019. Perché effettivamente, scusami Alberto, ti interrompo per ricordare, questi lavoratori hanno meritato comunque sia la loro qualifica, insomma dipendente, autonomo o terzo genere che vogliamo dire, hanno meritato una tutela particolare, cioè una legge loro dedicata, doveva essere il primo gradino in realtà di un progetto normativo più ampio, ma mi pare che poi ci siamo fermati lì. Esatto. Il problema fondamentale e l'elemento diciamo anche più chiaro da comprendere di questa protesta è il tema del cottimo, perché la legge che abbiamo appena citato, la legge 128, escludeva categoricamente la possibilità di un pagamento a cottimo, cioè vale a dire io faccio un certo numero di consegne, io otterrò un certo compenso da parte della piattaforma. La legge, il contratto invece che è andato a stato firmato da UGL e Asso Delivery, propone una specie di cottimo misto, così viene definito da alcuni giuslavoristi, vale a dire che di fatto è dire che si prevede sì una retribuzione minima di 10 euro l'ora, ma solo se quell'ora è stata integralmente dedicata alle consegne. Se invece ad esempio il rider per suo talento o per condizioni favorevoli ha impiegato meno tempo rispetto ai 60 minuti, allora il compenso verrà riparametrato in maniera diversa e quindi probabilmente il rider otterrà di meno. E questo è un tema che può sembrare un po' arzigogolato, un po' complesso, ma che in realtà ha un impatto molto evidente, vale a dire che di fatto il cottimo rimane, sia pure in una forma diversa e meno esplicita, e il rider è comunque appeso alla quantità di consegne che effettua. E c'è un altro elemento in questo senso che viene considerato allarmante e iniquo da parte di chi protesta e da parte degli altri sindacati, vale a dire il fatto che comunque queste piattaforme possono avvalersi di un quantitativo indefinito di rider diversi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che naturalmente però possono, queste piattaforme possono, tra virgolette, anzi sempre tra virgolette, avvantaggiarsi del maggior numero possibile di lavoratori, e questo rischia di far scendere le retribuzioni medie dei rider ben al di sotto. Infatti, o ben al di sotto. Infatti, diciamo con una sintesi conclusiva, Alberto, gli stessi rider hanno segnalato settimana scorsa nel protestare, guardate che con questo tipo di contratto in realtà si rischia di non solo di lavorare peggio, ma soprattutto di incassare di meno, il che sembrerebbe un po' contraddittorio, quindi uno raggiunge una tutela contrattuale che però finisce per essere peggiorativa. Questo che stai dicendo tu sembra confermarlo. Da confermarlo, poi naturalmente ora stiamo riportando le posizioni dei rider e dei sindacati che non hanno sottoscritto l'accordo. Da parte di Asso Delivery e da parte di UGL c'è stata invece, come è comprensibile, una difesa, sostenendo che si tratta di un contratto diciamo al passo con i tempi, perché uno dei grandi temi della gig economy, come sappiamo, è proprio la difficoltà di inquadrare il fenomeno secondo una contrattualistica che riesca a tenere conto delle sue particolarità. Questa è la tesi sposata anche da Asso Delivery e da UGL. Al tempo stesso, però, ne fanno notare le altre parti sociali, non bisogna bisogna da un lato evitare di peggiorare le condizioni dei lavoratori, e dall'altro bisogna comunque anche evitare di creare delle conflittualità con l'unica legge esistente a tutela della categoria. Grazie ad Alberto Magnani. Capisco, Alberto, che qui il settore è ancora in pieno fermento, e poi, come avrai sentito nell'apertura del nostro programma, stanno anche evolvendo proprio le offerte, le modalità imprenditoriali di entrare nel settore. Abbiamo parlato di consegne con auto e autisti particolarmente qualificati per cibi gourmet e anche di ulteriori piattaforme, quindi molto dovremo ancora vedere. Grazie ancora, Alberto. Grazie a voi. A presto. Parliamo di lavoro con INAPP. E rapidissimi andiamo in continuità parlando di lavoro con l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Con l'Istituto già da diversi mercoledì andiamo ad analizzare i vari aspetti del lavoro, come sta cambiando, come potrebbe cambiare, come è cambiato il mondo del lavoro. Tra l'altro, di recente abbiamo anche parlato dei lavoratori delle piattaforme digitali, tra i quali rientrano appunto anche i rider, non solo i rider ma anche i rider. Quest'oggi invece ci concentriamo sulle dinamiche dell'occupazione durante e dopo l'emergenza sanitaria, perché, come vi ho detto, esiste una ricerca fatta proprio dall'Istituto in cui è stato analizzato qual è stato l'andamento dell'occupazione durante il lockdown, quindi questa primavera, e poi alla uscita da questo momento di chiusura. Quindi lo traiamo un po' anche come auspicio per capire cosa potrebbe accadere una volta che l'emergenza fosse finita. Vediamo dal punto di vista lavorativo come potremmo vedere se le cose stanno migliorando oppure no. Abbiamo due ospiti, il professor Marco Centra, che è responsabile della struttura lavoro e professioni dell'Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche, docente di strumenti e metodi di valutazione delle politiche pubbliche alla Sapienza di Roma. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a voi. E con lui Massimiliano De Idda, ricercatore sempre dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, che è specializzato in economia del lavoro e valutazione appunto delle politiche pubbliche. Buongiorno dottor De Idda. Buongiorno. Allora, io vi ricordo i numeri di telefono se volete intervenire, mandarci dei messaggi, molti già lo stanno facendo, 800 24 00 24, il numero verde. So che privilegiate sempre, quando parliamo di lavoro, non so perché, ma vediamo che statisticamente è così, i numeri per l'SMS e WhatsApp. Allora il numero è 349 238 6666, messaggi SMS o messaggi WhatsApp. Rapidissimo, abbiamo un minuto e mezzo, professor Centra. Voi avete fatto questa analisi per verificare appunto come è andata l'occupazione, che dinamiche ha avuto. Possiamo dire complessivamente che purtroppo il lockdown ci ha lasciato con una complessiva perdita di posizioni di lavoro, è corretto? Sì, è corretto, insomma da febbraio l'occupazione fino a settembre, che è l'ultimo dato che lì è stato disponibile, abbiamo perso circa 330.000 posti di lavoro. La cosa interessante è che sono stati persi 430.000 posti di lavoro nel periodo di lockdown stretto, quindi nel periodo febbraio-aprile fino all'inizio della fase 2, e recuperati 100.000 posti di lavoro poi da maggio a settembre. L'auspicio è che questo recupero, che non ha ancora compensato la perdita osservata durante il lockdown, prosegua. Certo. Allora, dopo le informazioni sui mercati finanziari, torniamo in diretta con INAP, con il professor Marco Centra, con il dottor Massimiliano De Ida, e andiamo ad analizzare com'è questo possibile rimbalzo che ci auguriamo prosegua anche dopo questo secondo momento di chiusura. Adesso la linea va ad Adriana Fracchia per le borse. I soldi sotto il materasso e basta. Due di denari. Parliamo di lavoro, parliamo anche dei corrieri, che sono mal pagati, si fanno minimo 12 ore al giorno. Non si rispettano pause, non si rispettano i contratti di lavoro, la paga è sempre meno, non si capisce più niente. Cooperative su cooperative che non ti pagano né tredicesimo né quattordicesimo né straordinari, un casino. E voi parlate solo sempre di rider. Allora, accogliamo la protesta dell'ascoltatore, dico solo pacatamente, per carità. Abbiamo parlato già diverse volte, proprio qui a Due di Denari, Deborah Rosciani ed io, anche della questioni relative proprio ai trasportatori. Da ultimo, anche settimana scorsa, Deborah ha affrontato questo tema, e abbiamo sempre ricordato come ci sia anche una carenza di autisti nel settore, ma che le condizioni di lavoro e anche le condizioni retributive sembrano non incoraggiare a svolgere questa professione. Torneremo volentieri a parlarne. Effettivamente è vero, noi giornalisti a volte siamo un po' attratti dalla novità, che sembra luccicante più delle altre cose che già esistono. Ma torniamo a parlare di lavoro in generale, appunto parlare di lavoro con INAP. Il professor Marco Centra ci stava spiegando, tra febbraio e settembre abbiamo un complessivo saldo negativo di 330.000 posti di lavoro. Professor Centra, ma chi effettivamente ha perso il lavoro? Cioè quali tipi di contratti? Uomini, donne, giovani, meno giovani? Sì, in effetti il saldo, la perdita avuta durante la fase di lockdown e la ripresa nella fase 2 non è stata la stessa per tutte le categorie. Ad esempio, quelli che hanno perso di più sono stati i giovani. Su 329.000-330.000 posti di lavoro perduti nell'intero periodo, 313 sono dovuti soltanto alla classe giovanile fino a 34 anni. Le classi più anziane, 54 anni e oltre, hanno invece guadagnato, seppur di poco, posizioni in termini di occupati. Per una volta sembra che uomini e donne non presentino grandi differenze, anche se il recupero nella fase 2 delle donne è stato più lieve rispetto a quello degli uomini. Infatti, il professore, la interrompo perché noi, prego, proprio in un'altra di queste trasmissioni, Parliamo di Lavoro con INAP, avevamo segnalato un'altra ricerca in corso in cui si vedeva che al momento della ripresa in qualche modo gli uomini erano passati prima, insomma, e avevano ritrovato subito i posti, le responsabilità, eccetera, laddove invece le donne sembravano meno favorite, forse per il fatto di dover continuare a occuparsi, che so, dei figli piuttosto che degli anziani, insomma, la loro funzione di caregiver. Mi pare che anche dai vostri dati questa cosa venga un po' confermata. Sì, in qualche misura sì, perché le misure prese durante il lockdown, in particolare lo smart working, quindi la possibilità di lavorare a casa, ha influito anche sulla divisione del lavoro domestico. Fondamentalmente le donne che lavorano a casa fanno i due lavori, cioè si occupano della famiglia e si occupano del loro lavoro retribuito. Gli uomini in misura minore. Infatti, se vediamo banalmente i numeri, dalla fase 2 fino a settembre, il recupero degli uomini è stato di 70.000 posti di lavoro, quello delle donne poco meno di 30.000. Quindi anche in questa fase probabilmente la divisione del lavoro domestico ha contato sulle decisioni familiari e sul ritorno della componente femminile nell'occupazione. Molti di questi dati in realtà sono anche legati alla distribuzione dei settori. Come sappiamo, il settore più colpito dalla crisi occupazionale è stato quello del commercio, gli alberghi e i ristoranti, chiusi ovviamente, che ha perso oltre il 5% dell'occupazione tra il primo semestre 2019 e il primo semestre del 2020. Per quanto riguarda sia la distribuzione per età che quella di genere, quello che conta è la composizione per tipo di contratto. Sappiamo che le misure messe in campo hanno previsto sia la cassa integrazione, cioè un sostegno al reddito in continuità di rapporto, cioè per gli occupati, sia il divieto di licenziamento. Questo ovviamente ha favorito il mantenimento dei posti di lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato, parliamo di dipendenti. I lavoratori a tempo determinato, invece, quindi i lavoratori temporanei, hanno perso oltre quasi 300.000 posti di lavoro nell'intero periodo. Perché? Perché al di là del divieto di licenziamento per i lavoratori a termine, per i datori di lavoro è sufficiente la sospensione del contratto e non rinnovarlo. Certo, e quindi pensiamo, nonostante ci sia stata una modifica al cosiddetto decreto dignità, appunto, sì, però questo non è stato utile almeno per questi 300.000 che non hanno visto rinnovato il loro contratto. Sì, peraltro senza infrangere nessuna norma, questa è la questione. Per loro è rimasta la tutela ordinaria, non è stata attivata una tutela straordinaria come invece è stato fatto per i lavori a tempo indeterminato e in qualche misura anche per i dipendenti che hanno avuto il famoso bonus. Sì, la fermo un attimo perché volevo provare ad allargare il discorso con il dottor De Idda, che occupandosi anche di, come dire, indicatori macroeconomici, anche a livello di prodotto interno lordo abbiamo visto effettivamente un calo, l'abbiamo visto nei dati che mensilmente ci vengono comunicati, e poi una ripresa anche robusta nel terzo trimestre dell'anno, ripresa che però sembra oramai vanificata. Quindi il saldo complessivo, dottor De Idda, abbiamo visto che quello occupazionale è, ohimè, negativo, si parla appunto di questi 330.000 posti perduti, e quello della produttività, della nostra capacità produttiva, insomma della ricchezza italiana com'è? Ma intanto vorrei ricordare che si parla di recessione tecnica quando il prodotto interno lordo fa segnare una variazione congiunturale negativa per due trimestri consecutivi. Ma quello che vediamo in questo frangente storico è lo vediamo dal raffronto del dato trimestrale con quello dell'anno precedente, perché c'è un baratro scavato dal blocco delle attività economiche e sociali che è stato del 5,6% nel primo trimestre, cioè la perdita del PIL su base trimestrale rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente del 5,6% nel primo trimestre, ma è del 18% nel secondo trimestre. Il costo che ormai stimiamo del lockdown è stato nell'ordine di grandezza di 10 punti percentuali del PIL in un solo anno. Per dare un'idea, è la stessa dimensione delle stime della perdita accumulata nei 7 anni di recessione durante quella che è stata definita la grande recessione, cioè le due crisi, il periodo di crisi che è andato in Italia dal 2008 e al 2014, grosso modo. Cioè praticamente in pochi mesi abbiamo totalizzato la stessa frenata che prima abbiamo avuto bisogno di 7 anni per raggiungere. Questo è un po' la brutale sintesi, sì, giornalistica, perdoni. Però la brutalità deve anche tener conto di un'altra cosa, che se tutti noi abbiamo, credo che ricordiamo, quel periodo così lungo e che ha provocato così tanti traumi e tante difficoltà sia al sistema produttivo che al lavoro, come un qualcosa che nacque con quelli che tutti chiamavano allora i toxic assets, cioè era un virus. I era titoli un, tossici, sì. I titoli tossici, cioè in quel tempo era l'economia essere malata, cioè c'era una serie di disfunzioni, di malfunzionamenti dell'economia che avevano alla fine portato a pagare un conto e con due shock consecutivi, prima quello sui mercati finanziari del 2008 e successivamente ancora sui mercati finanziari con le crisi del debito sovrano. Ora è diverso, ora c'è una crisi sanitaria, c'è una pandemia, ci sono delle misure prese perché sono necessarie e c'è un sistema economico in cui sostanzialmente si ha un blocco dell'offerta che non può svolgere la sua naturale funzione sul mercato e quindi si trasferisce, certo, poi alla domanda aggregata, intanto come minori consumi di input produttivi e poi come minori consumi finali, perché viene a mancare o si teme che venga a mancare il reddito alle famiglie. Certo, aspetti, dottor De Ida, perché se intuisco bene, lei dice essendo un effetto causato da un agente esterno, appunto la pandemia, l'economia potrebbe anche mostrare una capacità di ripresa migliore, ma io la devo fermare perché adesso dobbiamo dare le informazioni sulla viabilità, quindi rimando la domanda dopo il traffico. Di denari. Mia figlia laureata, due lauree in lingue e letteratura, e a 25 anni, adesso da 3 mesi, non si trova al lavoro e non c'è nessun aiuto da parte del governo, né bonus né nulla. Come si fa? Grazie. Ci torniamo tra pochissimo su questo problema degli aiuti per questi contratti a termine che sono rimasti a piedi. Oggi sul Sole 24 Ore segnaliamo che il governo è al lavoro per una serie di tutele nelle politiche attive, quindi per riaccompagnare al lavoro le persone che l'hanno perduto e anche per una maggiore tutela generalizzata proprio per queste categorie. Vedremo che cosa si potrà raggiungere nella legge di bilancio. Un ascoltatore mi dà il desto scrivendomi via WhatsApp per ritornare sul tema che stavamo trattando con il dottor Massimiliano De Ida, ricercatore INAP. Dice l'ascoltatore: un giorno dite che nulla sarà più come prima, poi il giorno dopo mi dite che appena passerà il virus l'economia si riprenderà, insomma siete peggio dei virologi. Allora la battuta è carina e l'accettiamo, speriamo di non essere peggio dei virologi, nel senso i virologi quando litigano si contraddicono tra di loro. Il senso però, ma forse ho riassunto io malamente, quindi De Ida mi corregga, il senso sarebbe: nella crisi iniziata nel 2008 con il crollo di Lehman Brothers, il fallimento di Lehman Brothers, abbiamo visto una crisi interna al sistema finanziario ed economico con il blocco del credito. Qui abbiamo un agente che è completamente esterno al sistema economico. Quindi, come l'andamento dei mercati di questi 2 giorni ce lo confermerebbe, quindi possiamo supporre che se riuscissimo a superare, diciamo con il minor numero di danni possibile, e ne stiamo parlando proprio adesso dal punto di vista occupazionale, se riuscissimo a superare questa fase, il sistema economico avrebbe in sé le capacità per reagire rapidamente. Cosa ho sbagliato nel fare questo riassunto, dottor De Ida? No, mi sembra nulla, e anzi grazie al radioascoltatore che ha posto la domanda, perché il punto è essere analitici, nel senso che certamente è stato uno shock totalmente esogeno questa volta al sistema. Il sistema è colpito, il sistema economico è colpito in una fase in cui tutto sommato aveva riacquistato una stabilità dopo la lunga crisi a cui abbiamo fatto cenno, e da questo vengono le aspettative che, venuto meno il blocco delle attività, il sistema possa riprendere il suo cammino. Questo non ci esime da fare un'analisi e tenere sempre presenti i dati strutturali, premesso che comunque dobbiamo aspettare di avere i dati per fare delle valutazioni più approfondite, ma certamente sappiamo che altre altri movimenti di lungo periodo erano all'opera da tempo, come il cambiamento demografico, il cambiamento tecnologico e tutta una serie di sfide lanciate ai sistemi produttivi, anche quello del nostro paese, ma quelle stavano lì e ora il tema è se soprattutto per quanto riguarda il cambiamento tecnologico, tutto ciò possa subire un'accelerazione, e da questo quindi dipendono, oltre che dall'esito dell'andamento dell'epidemia, i dubbi rispetto a previsioni, ma al momento tutte le previsioni sembrano confermare l'ipotesi di un cosiddetto rimbalzo dell'economia e quindi prospettive di ripresa. Certo. E quello che non possiamo dire naturalmente, dottor De Ida, è quando, perché noi non sappiamo, appunto adesso abbiamo avuto questa bellissima notizia della possibilità di un vaccino che potrebbe cominciare già durante questi ultimissimi mesi del 2020, ma insomma non sappiamo poi con quanta velocità il sistema potrà reagire, dipende molto anche da quanto riusciremo a contenere la pandemia, immagino. Infatti non possiamo dire quando, è perfetto questo, però possiamo dire che così come uno shock esogeno ha determinato le problematiche di cui stiamo parlando, confidiamo che shock esogeni come cure efficaci o il vaccino possano sbloccare la situazione e quindi far riprendere tutte le attività, non solo quelle economiche ma anche quelle sociali. Allora, ho ancora un 3 minuti circa di trasmissione, vorrei tornare dal professor Marco Centra per chiedergli un paio di cose. L'una è il divieto di licenziamento. I dati che voi avete potuto analizzare nell'appunto andamento della perdita e poi recupero parziale di posti di lavoro sono in sotto questo regime di divieto di licenziamento, e come sappiamo c'è molta preoccupazione su quando questo divieto poi verrà meno. Al momento arriviamo fino a tutto gennaio, se non mi sono perduto qualche modifica ulteriore dal punto di vista normativo, e quindi i dati sembrerebbero un po' viziati da questo, dottor Centra, professor Centra. Beh, certo, viziati in senso positivo, nel senso le misure messe in campo hanno due logiche: uno, ti impedisco di licenziare i dipendenti a te impresa, dall'altro ti do una cassa integrazione che altrimenti non ti avrei dato, quindi il fatto che tu non hai fatturato perché c'è una crisi di offerta ti aumenta i costi, perché paghi lo stesso i dipendenti, ma ti do un contributo per pagarli che sarebbe la cassa integrazione, in estrema sintesi e semplificando. Quando il divieto di licenziamento sarà abolito, si auspica che i livelli occupazionali e i livelli di mercato siano quelli pre-crisi. In quel modo dovrebbe evitarsi un licenziamento di massa, questa è la logica delle misure messe in campo. Tuttavia questa cosa, questa ipotesi della ripresa dei livelli occupazionali e di scambio di mercato simile a quella pre-crisi, prevede un rimbalzo, questo rimbalzo non sarà uguale per tutti. Faccio un esempio sciocco: se io dovevo comprarmi un'automobile nella fase di lockdown, non ho potuto, e una volta riaperto nella fase 2 me la compro. Così non è per i ristoranti e i bar: il pasto che non ho consumato al ristorante nella fase di lockdown non viene recuperato. Quindi anche sui settori il rimbalzo ha un'estrema variabilità. La questione sul recupero: si aspetta che il recupero ci sia, e i segnali sono fondamentalmente positivi. Questo non vuol dire che tornerà tutto come prima. Se il PIL ricomincerà a crescere ai tassi pre-crisi, se il numero di occupati ritornerà nel primo semestre del 2021 quello pre-crisi, non vuol dire che non sarà cambiato nulla. Probabilmente l'organizzazione del lavoro sarà molto cambiata a parità di occupati e a parità di prodotto interno lordo. Se basti pensare appunto a quello che abbiamo visto in questi mesi con questa diffusione forzata del lavoro da remoto, io non amo dire proprio smart working perché forse è stato più un lavoro da remoto in generale, ed è una cosa che sta cambiando profondamente. Aiuti, sono 30 secondi, professor Centra. Il tempo determinato, che è quello che ha subito di più la botta occupazionale, al momento effettivamente non ha aiuti, forse in legge di bilancio. C'è poco da fare, cioè tutte le crisi esogene o endostrutturali hanno sempre penalizzato le componenti più deboli della popolazione, che sono la componente giovanile, l'ingresso nel mercato del lavoro, e la componente di lavoro a tempo determinato, mettendo anche insieme il lavoro autonomo, ditte individuali che hanno pochi sostegni, quindi presentano sul mercato maggiori esposizioni. Quando c'è una crisi economica, alla perdita di una punta, di un punto di PIL, il tempo indeterminato reagisce in maniera più bassa rispetto al tempo determinato. I giovani perdono più occupazione rispetto all'età centrale e all'età avanzate, quindi è un'esposizione strutturale di categorie più deboli e fragili sul mercato. E questo è il messaggio un po' che lanciamo anche in vista della legge di bilancio, sperando che intervengano degli aiuti indirizzati anche in questo senso. Grazie a professor Marco Centra e grazie al dottor Massimiliano Nidda dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche INAP. Due di Denari torna domani, torniamo domani con Investire Informati. Programma realizzato in collaborazione con INAP in qualità di organismo intermedio del Fonus PAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.